alle 3 di pomeriggio sto seduto sui gradini mentre il cielo si fa pigro e si riposa sui camini. C'è un telefono a due passi e ho bisogno di sentirti, la tua voce può bastarmi per convincermi che esisti nel mondo degli altri che mi chiude fuori, ma tu puoi trovarmi nei giorni più soli, quando sento che la mia vita è in un vicolo senza fine, quando l'eco di una ferita è un ricordo che può sparire dietro l'alito di un tramonto che ci porterà fino al mare, quando sento che sul tuo volto con le dita posso sfiorare il mondo degli altri che non so com'è, ma non me ne importa se sono con te, il mondo degli altri è un cielo di vento, un prato di fiori nel buio che ho dentro, il mondo degli altri, il mondo degli altri. Sogni, solo tu potrai trovarli, ma se non vorrai tenerli, non lasciarli lì davanti al mondo degli altri che non mi appartiene. Se tu non esisti, non posso più dire che ho bisogno di innamorarmi in un giorno di primavera, che non posso dimenticarti per un sogno che non si avvera, quando cambiano le stagioni e l'inverno diventa neve, quando canto le mie canzoni ho bisogno di stare in mezzo al mondo degli altri, perché